no, sono a telefono, riprendete voi. Ascolto, riprendo io, Giovanni Bracco. Ascolta, Cla, ho un'informazione. Ma allora in questo caso io non sono aggiornato, perché devo essere sincero, ho 20 anni che non toccavo nulla. Ma io, diciamo, gli apparecchi che ho qua, che sono tutti portatili fra l'altro, non li potrei spostare a Torralba, per esempio? No, Giovanni, a Torralba non c'è una sede fissa, puoi solo spostarlo in... Nello spostamento mobile, come parla la legge. Non è che tu vai lì e piazzi tutto senza appunto il tuo nominativo, lo sai che è in archivio del Ministero, dove dice che tu hai una stazione radio in via dove abiti tu qua a Sassari. Ok, e basta. Non devi fare per forza una comunicazione di spostamento, perché se invece succede disgraziatamente qualcosa di qualsiasi tipo, anche nell'ambito appunto della stessa telecomunicazione, passi guai, ti possono sospendere la licenza. È un casino, ma io questo lo sapevo già da tantissimo tempo, come sai benissimo che se io vengo a parlare a casa tua, se vengo a parlare da casa tua, io non sono IS0 DFB operatore Claudio, no, sarò IS0 DFB secondo operatore, mi comprendi, no? Col tuo nominativo. Cioè, le leggi sono leggi, non è che un radioamatore può andare a casa di Roberto e parlare a casa di Roberto. Da casa di Roberto la legge dice che tu sei il secondo operatore del nominativo di Roberto, non sei a casa tua, e lo devi dire, perché se tu non lo dici, anche lì succede qualcosa, il primo operatore che è Roberto passa a casini. Capito. Attenzione però, ma almeno diciamo in macchina questi apparecchi, questi apparati li posso portare, non c'ho antenna, di la verità comunque, però se domani dovessi decidere di mettere un'antenna in macchina, mettiamo sull'apparecchio 144 430 MHz, no? Posso farlo o no? Sì, che tu puoi farlo, sì, spostamento barato mobile è fattibile, ma lo lasci in macchina, però dal momento in cui tu te lo porti dentro casa e hai un impianto d'antenna, devi dichiararlo che in quella casa c'è un impianto di stazione radioamatore, perché altrimenti puoi avere dei problemi. Ok. Va bene, guarda le leggi continuamente, zio. Ok, sì, ringrazio, io rimango in ascolto. Robert, riprendi tu allora, dai. No, non è cambiata la legge, quella legge esisterà sempre, caro Giovanni, con i radioamatori è tassativo. Quando tu stai camminando, trovi portare macchina, devi dire barato mobile, cioè a fine dominativo, barato mobile, in modo che stai indicando che non sei più nella tua abitazione. L'abitazione è la sede della stazione radioamatore, di lì devi certificare tutto. Qualunque momento succede qualcosa, non necessita un intervento di calamità naturale, sapere che tu sei in quella stazione lì, non è che sei in giro dall'altra parte, non è come un CB che te lo porti dove vuoi. Qua stiamo parlando di stazione di radioamatore, non un apparato di banda cittadina che vuoi andare dove ti piace, l'importante è ti paghi il contributo. È assolutamente tassativo indicarlo, soprattutto anche quando vai in un'altra stazione, devi indicare che tu sei nella stazione di tale persona, e il secondo operatore, terzo, quanti ce n'è, quando fanno i contest lo stesso dicono anche nominativo, e sono in una situazione di cosa, di per dire fuori sede, devi indicarlo come finisci la conversazione a ogni passaggio. Ma non solo, Robè, anche mobile marittimo, anche se sei in barca, la stessa cosa, IS0 DFB varato mobile marittimo, capito? Non sono in barca, no, come dice, sono in macchina, no, mobile marittimo, ok? Assolutamente. Ho capito, ascolta, Cla, ma io volevo dire, il tuo numero di barca è sempre lo stesso? No, Giovanni, quello che tu forse l'ho cambiato, è cambiato, ma ce l'ha Roberto il mio numero se hai bisogno di me, Giovanni, non ci sono problemi. No, perché diciamo ho qualche informazione, diciamo, di aggiornamento magari, no? Hai capito, quando un esempio pratico non riesco a... Passaglielo, Roberto. Parecchi, 140, sì. Insomma, il complettone e tutta questa roba qua, eventualmente il telefono per qualche informazione in un secondo momento, ok? Ci rilancio il micro. Non c'è problema, Giovanni, chiama Roberto, è già autorizzato a passarti il mio numero, mi puoi chiamare quando vuoi. Avanti, Franco, ci sei ancora? Luca, c'è qualcuno, sì? Mi ha colpito per me un attimo. Sì, Ia, va bene. No, io attenzione, non sto difendendo il rematore, sapete che io non ho assolutamente. Io sono un fai da te e sono stato sempre, per i fatti miei, l'uso della detenzione, io me la sono presa perché per me era molto importante in quel periodo, era molto importante, ero seguito notte e giorno dalla postale e dall'esco radio, proprio perché ero un pizzino pizzoni, non ho mai avuto niente in regola, avevo di tutto e di più. E ho fatto 20 anni di pirata e non me ne nascondo nel modo più assoluto, però quando è il momento di mettere le cose a posto bisogna metterle, quindi attenzione che io non devo difendere nessuno, ognuno è libero di fare quello che le piace e decidere quello che vuole, però se parliamo di leggi le conosco molto bene, proprio perché ci sono passato, capito? Quindi rimane chiuso il discorso. Gianni, riprendi. Stanno affrontando i discorsi con me, se si terrorizzano così facilmente. Non ho capito, Angeli, scusa, stavo rispondendo a Giovanni, cosa hai detto? No, il telefono sta caricando, è silenzioso, cosa hai detto? Non ho capito. Sono discorsi molto lunghi da fare, Angeli, non è che li possiamo fare qua in un qualsiasi dove c'è altra gente. Il contest sono cose organizzate dove possono organizzare le sezioni o le varie associazioni nel momento in cui necessita appunto una come te lo posso spiegare, un contesto di tante cose, te lo spiego meglio in al telefono, ok? Giulio, ci sei? Robbe, ma non ci sei? No, non sei parito. Robbe? No, io sono... No, bracco, là, però... poco fa c'erano 3-4 persone che ne mancano, e che dia? Sì, vabbè, se non c'è più nessuno non è un problema, Giova. Vuol dire che hanno altro da fare o il discorso non le interessa. Prima li affrontano i discorsi, poi è il momento che tu gli dici appunto che ti dì la mano e poi, come si dice, non mi ricordo, vabbè, lanci la pietra e poi nascondi la mano. Se un discorso da affrontare si affronta in tutte le dovute... le dovute tecniche, le dovute documentazioni che esistono in un discorso. Se poi a qualcuno non le piace è così, non ci posso fare niente io. Questa è la legge, quindi bisogna seguire la legge. Va bene. Gianni, non mi tu dici. Gianni. No, che ne manco. Un attimino. Ma come quello che mi meraviglia è che se si hanno mollato senza salutare, non mi sembra una cosa anche normale. Cosa, Giovasse? Se questi hanno fatto quel rischi senza avvisare, senza salutare, no, non è manco educazione, se vogliamo. No, vabbè, Giulio è al telefono, con gli altri non lo so. Ma ti ripeto, a me non interessa con chi è al telefono cosa sta facendo. O se sono tutti al telefono per consultarsi, a me non mi riguarda, a me mi è stata fatta una domanda e io ho dato una risposta, ok, è così e basta, capito mi hai? Oh sì, ho capito, ascolta, però ma praticamente questi non possono, diciamo che i CP stanno alla regola e non possono manco trasmettere allora. Me l'ha detto Luca facendo una battuta che 99,9%, ma non stiamo parlando di Sassia, stiamo parlando in tutta Italia, ok? 99,9% in tutta Italia, prendiamola così, non è in regola, ed è la pura realtà, che c'è oggi un baracchino omologato, usa roba che è omologata di legge, nessuno, però ognuno si fa i fatti suoi, io ho sempre detto vedi e fatti cieco, senti e fatti sordo e nessuno lo capisce, invece c'è gente talmente ignorante ignorante nel senso che ignora proprio il problema vero e proprio, la legge, e continua a dire quello che ha, quello che non ha, soprattutto della nuova assegnazione del PMR, no? Che è una cosa molto molto seria, perché stai parlando in UHF, tra l'altro a poca distanza, intermedio tra frequenza e distacco, no? E continuano appunto a non capire che quello che hai, tienitelo per te, nessuno sta dicendo che, tienitelo per te, non andare a dire c'ho la direttiva, ho messo l'antenna fuori, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, sono cose che non bisogna fare, però tu stai andando già a dirle, stai mettendo in bocca a chi, capito, magari ti sta ascoltando e può essere pericoloso. E quindi c'è molta gente ignorante su questo sistema, Giovanni. Io ho fatto 20 anni di pirata, 20 anni. Mi massacravano giorno e notte, giorno e notte. Io rientravo al lavoro qua, sto parlando del 1987, 88, 89. Rientravo da lavoro, perché io lavoravo, lavoravo a Leniche c'era allora via Milano non era così, la camionetta della postale col telescopico sollevato al primo rifornitore che avevano fatto, mi aspettavano, come accendevo la radio, ring, campanello, tutti i santi giorni, alla fine mi sono stufato, capito? Mi sono stufato perché mi è andata sempre bene, nel senso che ho sempre detto la verità, salite, quello che c'era e non è che nascondevo niente, una volta, due volte, tre volte, mi ricordo la terza volta proprio un funzionario che oggi, ma è un carissimo amico perché è un radioamatore e tu sai di chi sto parlando, mi ha detto noi non veniamo più, la prossima volta che veniamo devi avere la patente del radioamatore. Questa sua cosa me l'ho proprio messa dentro la testa, ho detto, ma che no, perché io devo stare. E appunto ho chiesto informazione a lui stesso e mi ha detto devi fare così, così e così. Visto che sei appassionato in radio, perché vediamo che sei appassionato in radio, proprio con tantissima tranquillità, capito? Mi ha detto vai e dai la patente al radioamatore, studi, ti prepari e vai. E così ho fatto, Giovanni, ti giuro che non arrivi alla giornata di domani, ho fatto proprio così, ho dato proprio adito a questa sua informazione proprio chiara e tonda, capito? Bella proprio. E sono andato, l'ho fatto. Nel 92 sono andato, mi sono preso la licenza della patente, la prima perché ancora era speciale e ordinaria, la seconda volta ci siamo preparati con la buonanima di Torellai per andare, perché abbiamo fatto tutte e due assieme, sia la speciale che l'ordinaria. Ci siamo preparati per andare a fare la telegrafia e invece a me mi avevano esonerato perché avevo un diploma che mi consentiva l'esonero e lui invece aveva dato l'esame. Questa è la pura sincerità. Quindi se uno ha voglia di stare in regola e ha la passione della radio, se la prende la patente, se ha qualcosa da nascondere, è chiaro, se poi hai un baracchino, un microfono, un'antenna, ma cosa di naffutti, quello è quello, però come dice Luca, il 99,9% nessuno è in regola in Italia. ACP naturalmente. No, ma stavo dicendo, tu hai preso la patente quando ancora c'era la telegrafia o no? Sì, c'era ancora la telegrafia, sì. Quanto è che hanno smesso di prendere in considerazione la telegrafia? Ma mi sembra due anni dopo che l'avevo data io, aspetta che devo rispondere al telefono. Vabbè, ma chi sei o no, cazzo? Sono Giovanni e cioè Bracco, non so se ci sono gli altri. Chi sei, Angelino? Come? Ho capito chi sei, perché non ti ricevo, diciamo, con un segnale. Col segnale debole di sto ricevendo. Senti, ma da dove stai modulando? Ma non sei Angelino o no? Bello che ti ho chiesto, mannaggia, non mi hai risposto poco fa. No, comunque ti copia, a me come mi stai copiando? La radio la radio, diciamo, dipende, se mi metto il telefono, ma se mi metto il microfono sotto il naso esco meglio naturalmente, no? Poi c'è un altro apparato che il microfono devo mettere addirittura due palmi dalla bocca, se no diciamo è distorto, qui purtroppo bisogna parlare attaccati proprio al microfono. Vabbè Angeli, fai girare questi altri agenti, cosa vuoi ti dica? Positivo, dai frate, sono qua, dai, sono tutto qua, positivo Cavarrocci. Stavo ascoltando, dai. Mi sono dimenticato le poste. Prova, non mi ricordo come si chiama. Ma tu sei fuori, ci siete? E adesso se vuoi io ti posso, come si dice, se vuoi io lo stacco dal muro e ho tutti i bollettini pagati, però lo devo aprire, capito? Devo aprire la cornicetta col vetrino e ti posso dire il nome esatto del foglio. Ancora si compila lui. No, vabbè, c'è il modulo CLA. C'è quel modulo che c'è scritto anche il baracchino monogatto. Però a quanto ho capito stanno dicendo che, come si dice, che vuole la marca CE. Poi quel baracchino lì mi si è anche rotto. Sì, non dichiarare niente, tutto norma celebre, se quello lo so. Non so perché non mi interessa. Non ci sono mai entrato in quei discorsi, c'è la vecchia concessione, perché c'è ancora la domanda da fare praticamente, aspettare la risposta, poi allegare il bollettino, tutta quella prassi ce la fare sempre. Io ho sempre pagato, non lo so, io ho sempre quello il modulo, sto sempre pagando, anche se lo usavo pochissimo, ma l'ho sempre pagata io, sempre, non si sa mai perché controllo, poi c'è anche l'antenna sul tetto. Natalino, ora stavi dicendo, che non ho capito niente, che hai parlato assieme a Claudio, non ti ho capito, vai. Dove c'è l'assistenza? C'è il modulo per la dichiarazione di attività, si chiama così adesso. Vabbè, io non lo devo fare, no? Lo deve fare. Ah. Perché Natali, c'è sempre qualcosa da compilare prima di pagare il conto corrente, non sono informato di questo. C'è un modulo. L'ho scaricato. Va cercando l'affare per la... Sì. Per la concessione e glielo stampato io, perché lui non ha né computer né stampante, allora glielo ho stampato due copie, una copia la devi conservare e una la devi mandare. Sì, questo è rientrato anche giù. Sì, perdonami, gliel'ho detto io se stai parlando di Antonio, gli ho detto io di chiamare a te che eri più informato, Natali, perdonami se... perché appunto io non sono informato su questa cosa CB, di questa modulistica, capito? Io non ci voglio sentire. Ogni anno assieme a quella radioamatore pago 12 euro, però non sono informato sulla modulistica, sono più informato sulla parte amatoriale. Avanti Giulio. Ok, sono rientrato, una lunga telefonata. State parlando di cosa? Della tassa CB? Sì, beh, la tassa annuale col solito bollettino e basta. E quando uno vuole dare inizio all'attività, appunto, delle attività di CB, deve fare sempre la solita domanda, la spedisce sempre con il solito discorso, con la ricevuta di ritorno, eccetera, però poi Cagliari non ti risponde nemmeno. Ma tu dal primo momento che hai spedito la domandina, così per dire, no, e hai pagato i 12 euro, boh, sei tranquillo, tanto Cagliari non ti risponde nemmeno. A quel punto sei tutto a posto. Interessante pagare tutti gli anni, entro il 31 gennaio la solita tassa sempre dei 12 euro, tutto lì. Sì, però devi conservare una copia di quello che mandi a Cagliari, perché loro non ti rispondono. Quindi conviene stamparne due copie, le compili e una te la conservi, perché Cagliari non risponde, capito? Una domanda, Giulio, poi se tu la sei un carino, ma lì va legato per voi, chiaramente per la banda cittadina, va legato anche il foglio che alleghiamo noi con gli apparati per i cibi, sarà la norma CE, va legato anche quello oppure niente, non devi scrivere niente? No, devi fare solamente la domandina che vuoi dare inizio all'attività della banda CB, tutto lì, niente di particolare. Quindi poi quando puoi anche scrivere che intendi utilizzare un apparato con la norma CE, tutte queste cose, se vuoi le puoi anche mettere, però non credo che te le richiedano obbligatoriamente queste cose. Per cui poi tutte le domande che si fanno non trovano risposta da parte di Cagliari, perlomeno adesso è così, prima ti rispondevano eccetera eccetera, ma adesso non ti rispondono nemmeno. Tu da quel preciso momento che hai fatto la domandina di inizio attività nella banda CB e hai pagato il contributo di 12 euro, sei già in regola. Naturalmente devi avere sempre la ricevuta spedita come comprova di aver effettuato il pagamento, no? È ovvio, questo sì, questo per la prima volta. Che poi tra l'altro basta prendere un bollettino a tre copie, due te ne rimangono e una la spedisci là. Dunque in caso di controllo tu ce l'hai la matrice, come puoi dimostrare che hai pagato il canone, niente di più. Poi per il resto si in regola tranquillamente, no? Non è più come una volta, meno fiscali insomma sono, ecco. Questo digli di rivolgersi a me che glielo stampo io il coso, se lo vuole. Era un'altra persona qua alla quale io ho stampato la domanda di iniziatività, capito? Sì, questo è. No, perché a me me l'ha chiamato Antonio e voleva appunto delle informazioni e l'ho detto guarda, non ti voglio dire fesserie, più preparato di me in questa cosa è Natalino, se non è il numero te lo do, no, dice ce l'ho, ce lo chiamo io, forse non ti ha chiamato. Proprio perché no, per noi è diverso Giulio, per noi è diverso, a scadenza dei 10 anni noi dobbiamo richiedere l'autorizzazione generale nuova per l'uso delle radio, capito? Che è praticamente un rinnovo di licenza, altrimenti ci rispondono, cazzo se ci rispondono. A vedere se ti rispondo, devi fare la domanda, addirittura noi prima dell'autorizzazione generale, prima di uscire l'autorizzazione generale, dovevamo mandare a Cagliari la licenza e ti mettevano il timbro, adesso non si fa più. Adesso ogni 10 anni tu fai, tanto ti mandano loro la lettera di preavviso che ti sta scadendo l'autorizzazione generale, capito? E quindi tu a scadenza adesso io e Gianfranco, che l'abbiamo fatta assieme, mi pare ci scade nel 2022 o 2023, quindi un po' prima, 2-3 mesi prima loro ti avvisano e tu mandi la documentazione che loro ti chiedono, perché ci vuole la fotocopia della licenza, la fotocopia della patente, documento d'identità, il nulla osta di dove abiti, dell'ubicazione della stazione da radio amatore, non da amatore. C'è un sacco di stronzate che sono però leggi, appartengono alle leggi. Per noi è diverso, pensavo fosse uguale anche per la CB. Va bene. Chi c'è? Non so se Gianni è rientrato, boh, vabbè, riprenda chi vuole, dai. Dimmi, Angeli. ora ti ho mandato il link su, su WhatsApp. Ma guarda, controlla e vedi un po'. C'è tutto, dai, ma l'hanno mandato, l'ho mandato a te. Va bene. Ricordati che gli apparati che dichiara devono essere melegati, eh? Se non sono melegati a norma CE non è fare. Devi dichiarare apparati. Non omologati, melegati. Sì, bauli. Bauli devono essere, Angeli. O melegati o bauli. O maleccani. Che beccata. Vabbè, dai, già ci siamo capiti comunque. Io, ripeto, l'ho sempre pagato anche se non lo usavo, perché poi c'è anche l'antenna sul tetto, perché quanto ho capito, se non paghi più, così, poi non lo so se mi ha dato una stronzata, devi levare l'antenna. E si conferma. Questo è vero, è ovvio, no? È normale quello. No, e se non paghi, se passa l'anno, che tu non hai pagato, decade, diciamo così, quella chiamiamola concessione, il diritto alla trasmissione, ecco, hai finito. Devi rifare da capo questa, quella specie di domandina, sempre allo stesso modo, e ciccia, ma niente di più. Non è come i radioamatori che dopo 10 anni, non voi avete un tempo, avete stabilito qua, dopo 10 anni dovete rinnovare. No, la CB non mi risulta che sia così. Io ho sempre continuato sulle 12 euro già da quando avevano cambiato da 15 a 12 e ci metto anche PMR, io faccio il bollettino, risetto il mettitore di debole potenza, CB più PMR aggiungo, tutto, non mi hanno mai detto niente, non mi hanno mai risposto, per cui rientra tutto in un unico canone o qua. Sì, io solo. Per voi è così, ma per noi è diverso. Io ho UHF 030, 50 mega, poi ci hanno assegnato anche un'altra banda, anzi 50 mega, oramai siamo oltre, abbiamo anche 70, quindi non scrivo niente, scrivo solo quando pago il bollettino ogni anno, in un bollettino metto canone CB per l'anno 2020, invece nell'altro cosa metto canone radioamatore anno 2020. Faccio due io, quindi è chiaro che devi distinguere le cose. Vabbè, avanti Robert che sei rientrato, vai, gira per chi vuoi. Sono mancato qualche minuto, dai, no? Ho sentito Giulio, Luca, Angelino, tu, poi chi sei rimasto? C'è io, tu, Giulio, mi pare ci sia anche Giovanni, Angelino, Luca, Gianni, si è assentato. Non so dove sia andato, Franco non si è sentito più, l'ho rilanciato, non ha ripreso, non so, chi c'è. Me l'hanno mandato, dai, aspetta, facciamo un messaggio su WhatsApp. Però parlatelo una volta, uno rilancio, riprendete voi, se no non si comprende nulla. Catalina e Claudio, due volte vi fa vedere in pari, non si capisce l'uno dell'altro. Mi calpestano tutti, mi calpestano Luca, con questo cazzo di... Ma adesso non ci parlo più, là, basta, ciao. Forse abbiamo parlato in due, ma volontariamente o andata lì. Perché ha rilanciato a me e io ho rilanciato a Roberto. L'hai fatta apposta. Sì, fatta apposta, che non so come sto facendo Natalino. A parte Natalino a me mi arrivano per più 20. Se dovessi aumentare la radio non penso che possa disturbarlo nessuno. Perché la Luca arriva più forte di me, solo magari sente anche a me di radio, capito? Per quello che non si capisce niente. Vai Giulio. Ok, queste sono cose che succedono alle volte, questa la modulazione, non è quello il problema. Vabbè, dai, comunque, chiarito un po' il tutto. anche quello fa parte del questione, no? Anzi, soprattutto queste cose bisogna dibattere di tanto in tanto, anche per rimanere aggiornati, per chi non sapeva come è stato rinnovato un certo tipo di regolamento, per cui è meglio discuterne sempre. E va bene così, non possiamo parlare sempre di Ministro Fagioli o di Gamberoni. Il Gamberoni è meglio, però di Ministro Fagioli ogni tanto già ci vuole. E poi un'altra cosa, però di questo non sono sicuro, riguardo del fatto che non si paghi il canone, so solo se tu lo paghi in ritardo, ogni mese di ritardo è lo 0,5% della quota annuale, ogni mese divisi per 12, sei due mesi di ritardo e paghi lo 0,5% in più, però se non lo paghi per due anni, non sono sicuro, questo verificatelo, perché l'ho letto da qualche parte, per dire, l'ho fatto nel 2020, però non l'ho fatto nel 2019 e nel 2018, so che bisogna pagare anche i due arretrati, se c'hai la detenzione degli apparati. Sì, ne ha parlato poc'anzi io di questo fatto, se tu rimani un anno senza pagare, alla fine, se dovessi pagare, che so io, alla fine, negli ultimi giorni di dicembre, devi pagare tutto l'anno con una sottotassa del 5% per vari mesi, eccetera, eccetera, quello sì, però se poi passa il mese di dicembre anche, allora deve rifare di nuovo la capo da domandina perché è decaduto tutto, io so che è così. Va bene, dai, avanti Luca. Ma tu la concessione, quando l'hai chiesto, la detenzione degli apparati, quando l'hai fatta? Allora, teoricamente a legge vecchia tu dovresti chiedere un'altra perché decade dopo un certo, diciamo, la rifai un anno e tacito consenso, se tu non paghi il contributo automaticamente scade, però per quanto mi ricordo io è stata fatta anche una modifica, non è più necessario la comunicazione della detenzione degli apparati, verificatelo questo, perché di questo non sono sicuro, perché prima era obbligatorio fare la comunicazione di detenzione degli apparati, addirittura io quando mi hanno dato un baracchino che era in un'altra concessione ho dovuto dare l'indicazione dicendo che questa palata è intestata eccetera eccetera, veniva passato a me quando l'ho fatta io, parliamo nel 2004, verificate questo, a quel punto ti conviene fare una nuova domanda se si fa Mangelis. Beh, non devi dichiarare niente, bisogna rifare la domanda nuova che si trova nel sito del MISE. Non devi dichiarare nessun apparato, nulla, perché io non ho dichiarato niente. Avete parlato in due, Natalino e Angelino, comunque sì, va bene, Natalì, è quello lì, e non si dichiara più l'apparato, però devi fare la domanda di coso, la dichiarazione la devi dare, la comunicazione che c'hai, una trazione trasmittente, manda cittadina, debole potenza, eccetera, eccetera, devi farla ancora, quindi è ancora valido il discorso, Natalì. No, non devi dichiarare nulla, devi fare la dichiarazione di inizio attività, basta, pagare le 12 euro, mandare la fotocopia della carta d'identità e basta, non devi fare nulla, capito? Io ho fatto così, perché c'è nel MISE c'è il modulo, c'è, me l'ho scaricato anche a un'altra persona ieri, e c'è CB e PMR in quella domanda lì, quindi se uno ha il PMR deve sbarrare la casella PMR, capito? Però non deve fare nessuna dichiarazione di apparati di niente, solo che deve avere gli apparati omologati con la marca CE. Sì, ho capito, ok. No, prima invece dovevi indicarlo, no, gli apparati ne potevi mettere quanto li volevi, adesso l'hanno tolta quella dicitura, infatti era ridicola. Ok, hai capito Angeli tutto il discorso, ti conviene a quel punto farla nuova, te come che stai partendo da oggi e fai il contributo da oggi, solo che ti devi pagare tutti i mesi da gennaio in poi tu. Attenzione che devi metterlo nella causale, come ti avevo detto. fare, come ha detto Natalino, inizia attività 2020, più integrazione gennaio, febbraio, marzo, aprile, quando è che la fai? Ok, la stessa cosa Roberto, conviene fare a Temi, tu devi fare un bollettino di integrazione, nella causale lo scrivi, ok, integrazione canone CB per l'anno 2018-2019, 24 euro, perché lo devi fare? Cosa devi fare? Io lo pago tutti gli anni, cosa devo fare? Tu l'hai fatto 2020, noi ti manca 2018-2019, così è, ho capito male. No, ho detto, se uno ha la concessione, è per dire due anni che non la paga, per non perdere il diritto di quella, chiamiamola concessione, quella dichiarazione, devi pagare 2018 e 2019. Io lo pago tutti gli anni, da sempre, l'ho sempre pagato. Però se lo paghi in ritardo, per dire, anziché gennaio, entro il 31 gennaio lo devi pagare, per dire, lo paghi a febbraio, il mese di gennaio, dividi, quanto è, 12 euro diviso 12 e aggiungi in quel mese in ritardo col 0,5%, devi mettere, vabbè, sono un po' chi spiccioli, dai. Sì, capo. Non avevo capito male, ok, sì, beh, certo, c'è l'integrazione da fare, altrimenti è un casino. C'è stato un break basso, vediamo chi lo sente, avanti. Ho capito Sandro, sei Sandro di Alghero? No, aspetta un attimino, se tu metti che parti da oggi non devi fare, devi pagare sempre 12 euro, anche se lo fai a novembre, devi pagare sempre 12 euro, non ne paghi perché stai dichiarando che stai partendo da oggi, dalla data di oggi, quello lì, non, la stazione si paga, se io l'ho sempre fatta e lo pago in ritardo, quindi io ho la concessione al 2004, anziché pagarlo entro il 31 gennaio lo pago a marzo, quei 2-3 mesi mi devo pagare la stazione del 0,5%, tu dichiari che stai partendo da oggi anche se hai già iniziato da 6 mesi, 7 mesi o dall'anno scorso, tu loro sanno che hai iniziato da oggi e ti paghi 12 euro in testa. Vi saluto, dai, e a più tardi devo andare a fare merenda, dai, a più tardi ci coincide, ciao a tutti. Ciao Giulio, ci sentiamo più tardi, anch'io do Robè, mi allontano un attimo che mi stanno chiamando al telefono dall'altra parte. Ehi, ok Claudio, ciao Giulio, ben sentito, dai. A Corso, a Sandro lo sento, piccolino, Santiago sì, però la radio è quasi incomprensibile. Claudio. Ci ha allontanato un attimo Giovanni, Claudio. Mi sto allontanando un attimo, rientro fra poco. Ok. Basso, non so se lui mi ascolta, ma in mezzo al QRM Radio 1 li do, poco comprensibile, ho sentito qualche pezzo di percorso della conversazione, però non riesco a sentirlo bene, e non so se lui mi sta ascoltando. Sandro, mi ascolti? Se no mi fai la ponte tu. Poco, ho sentito qualche pezzettino, ma non ho capito da dove sta trasmettendo, come mai è così basso? Perché l'ascoltavo molto più forte prima, io parlo, se stiamo parlando lo stesso Sandro di qualche anno fa, e credo di sì che sia lui, non credo ce ne siano molti all'altro. No, sì, un attimino, non aggiungi il telefono. Segnalino micro, ma non sento radio, radio proprio zero. Tu Gianni? Negativo, ciao Marco, ne approfitto, ciao Marco, ciao Bombolo, ciao Angelo D'Alghero, no, per me l'amico tuo giù da Alfa Lima è proprio negativo, non sento niente. Bombolino, lo senti Angelino? Bombolino, Bombolino. Lo senti Angelino, ti sa che ti ha salutato. Tira fuori, no? Ma tu, ma ce l'hai dalla parte dove passa il tram l'antenna, no? Dietro l'hai messa? Infatti. Sono rientrato. Fammi che c'è... è entrato anche Sandro, Conan, di Alghero, se lo occupino, ma penso di sì, dai. Un po' bassa arriva, prova Robè. No, stavo ascoltando prima con Angelino, arriva molto basso qua in mezzo al QRM, non è che lo ascolti bene, perché Santiago sì, però la radio a tratti l'ascolto, dice che c'ha problemi di antenna, e c'ha un filo, un cavo rovinato, per quello era il problema. Angelino, c'è ancora? Mi sa che adesso non prendo più, corre a me a 7 è salito. Sta parlando. Saggi incontrata a caso e figurata non poco. Luca, oh? Ti mando una canzone rap in sassarese, l'hai vista? L'hai mai sentito quel gruppo sassarese? No. Aspetta, la mando e ti fai due risate. È un gruppo però grosso, no? Cagate, è fatto. È un gruppo elettrogeno. Sì. Un cori bruciandi che fuoco. Avanti Gianni, dobbiamo fare, beh. Dove in ferie, dove sei stata? A Hawaii. Eia. Magari, sì, con la mente viaggia dappertutto. Ciao, ciao Roberto, buonasera, ben sentito. Vabbè, vi saluto, faccio un saluto di nuovo generale a tutti, perché magari ho paura di dimenticarmi qualcuno. Allora, comunque, ritenetevi tutti salutati e niente, avanti Condor che passa. Eia, ciao, ben sentito. Io con la mente ero a letto con gli etti di Playboy invece. Con la mente la scuola della barba, c'è anche Natalino, avanti Natalino. Natalino, con coma, e non parli, eh? Vuoi che ti faccia scuola il telefono, eh? Mica, piglio la macchina e vengo lì, già lo sai che ti strappo i baffi e bottoni dal gilet. No, ne ho baffi io, no, c'ho la barba, è diverso. Luca Puggione. Davvero, chi è Luca Puggione? Non ti chiamo Natalino, Luca Puggione. Questo Luca Puggione, gatta, poi io non lo so. Coccovale. Luca, a me ti ho mandato quella roba, a me. Adesso l'ascolto. Anche a me, anche a me. Ma non c'ho il tuo numero. Ma fatta mandare da Luca. Mandato, Marco. Angelino, va tranquillo, fratello. Mi ha salutato Antonio, mi ha salutato. Occhio al Pirisoma. Tu. Che avanti? Antonio. Ah, tu. Ah, Bombolino deve essere, non mi sente. Chi c'è rimasto qua? C'è Marco Condor, è uscito dalla gabbia, ancora in gabbia, sì. Ripreso si dice, va. Ciao tu. Ecco, cai piscina, ero due ore già a Mendidi. Marco. Eia, stavo ascoltando il pezzo. Sassarese comunque, sì. Eia, ma ne hanno fatto un po' di canzoni, ce n'è una a Platamona, ne hanno fatto il video che è fatto a Platamona. Questo è bello, l'hai vista la canzone? Eia, vabbè, lungo 4 minuti 26, poi me lo guardo con calma, senza rumori del baracchino, dai. Vai, un pezzettino, dai, all'inizio, sono dentro un appartamento, ci sono un po' di donne e coso, una donna, anzi, loro che cantano rap in sassarese, non l'avevo mai sentito, ma bella mia, belle, belle immagini, c'è tutto carino. Bella. Fit, Ciogga, Bantu G, Feccia, bello. Deia, no, è simpatico, l'ha mandato un amico, ha detto, non li conoscevo qui, no, ma sono anche bravi, no? Sono di gente, io pensavo fosse qualche scherzo, invece sono, deve essere, ho guardato su internet, su YouTube, ce ne sono tanti di video di questi. Ciao Robè, non so se mi hai sentito poco fa, buonasera. Per Marco, tu con la mente ti stavi sollazzando con le conigliette, io con le bagnine di Baywatch, beh anda. Anche quelle, Dio le mantenga, adesso sono un po' invecchiate. Ciao Gianni, scusa, mi sono dedicato, ti mando anche a te quel video di quel gruppo Sassarese Rap, se li conosci, questi Ciogga, non so come si chiamano, e mai sentite tu, Gianni, Giovanni? Li conosco quasi tutti, chi fa rap in Sardegna li conosco quasi tutti, da Cagliari, Nuoro, Oristano, Mogolo e Sassari, pure Bosciodorra. Ma Sassarese, mi cantano in Sassarese qui. Capa, Giocca stai dicendo, sì, li conosco quasi tutti. No, sono simpatici, dai, è una novità, dai, in Sassarese non li avevo mai visti, normalmente anche napoletano, barese, però Sassarese proprio mai visto. Diciamo che un po' di anni fa siamo stati noi praticamente a sdoganare il Sassarese con l'hip hop, dai. No, già me lo immagino, tu già sei appassionato, dai, già ti conosco da un po', dai, un pochettino diciamo all'avanguardia su certi generi, dai, anche già dal fatto della moto, eccetera, cioè, stavi qualche anno avanti agli altri, dai. E a Riccardino, beh Riccardino, ciao. Ehi, entra, c'è nel 20, ce ne sono tanti, quello più interessante è quello NL, vuol dire Netherland, provaci, ci sono un sacco di funzioni e ti diverti, poi magari se capita, magari quando sei in zona con tuo babbo te lo faccio vedere dal vivo. Ok, vai Gianni, un profeta per Riccardino, poi c'è Marco e Luca e Antonio Bombolo, saluta a tutti quanti, Riccardo ti rilancio il mic. Aspetta un attimino, adesso lo rilancio io. Allora, appena una notizia, 9 minuti fa, nuovo picco di casi di coronavirus a Sassari, c'è una vittima, eh? Ah, c'era anche l'altro giorno, è venuto un amico mio in officina ieri, Luca, due ne sono morti, ma morire di altre cose, non muoiono di cuore. Ma cazzo, comunque la gente continua a morire, Robe, avanti Riccardino. Ok, Luca, non confondiamo tutte le morti, adesso hai visto quella protezione civile, anche l'infarto, leucemia, hanno avuto tutto coronavirus, ma non è così, siamo molto attenti, che adesso stanno facendo entrare il panico alla gente per cercare di non farli uscire di corpo, per poi costringerti a fare il vaccino, siamo molto attenti e siamo molto disinformati. Ti ripeto, questo amico è venuto ieri in officina, lui si è fatto tutta la quarantena per il coronavirus, è venuto da Ponte di Legno, per cui lui era in ospedale a Sassari e ne è uscito l'altro giorno. Quello che stanno vendendo, allora vedo qua, c'è un vendo Kevo DS440 senza microfono, la radio funziona benissimo, 400 euro, la radio se volete, microfono da tavolo, pure il prezzo è 450, cioè aggiungendo microfono da tavolo, l'MB più 4 vuole 450 euro. Beh già l'ho visto quel video, da coso, quello marketplace, quello lì sta dicendo. No, mercatino da radioamatore. Ah, vabbè, l'ho visto anche da un'altra parte. E l'MV più 4 come la Giumano vende più del coso, dell'MC60. Bah. Ah, niente, è macca. Poi c'era uno l'altro giorno, aveva una bella offerta, un po' di belli apparati c'aveva. Tra cui poi c'era anche un Colt, diciamo diversi coso, amplificatori, c'era una bella stazione, stava a buon prezzo pure. Diciamo 4,40 fare 300 euro, una cosa. E poi c'era 150, 200 euro, vabbè, c'era il Saturn Echo, 200 euro che quello che le voleva dare 150, e poi c'era uno, non so se era un S9 o che cosa era, o un Cobra, boh, non lo so, lo stesso sono un centinaio di euro. Ho capito, sì, vabbè. Magari, tu sei lui? No. Parodi, eh? No, Mirko Ras. E beh, li hai visti quel gruppo rap, Luca? Eia. Come? Eia. Ma li conoscevi? No. Ce ne hanno fatto altre canzoni, li conosce bene coso. Gianni è un profeta, lui vabbè, come dicevo prima, lui è stato sempre all'avanguardia di questi di generi nuovi, dai. Come senti? Gianni, avanti. Eia. No, volevo salutare Riccardino, qua arriva a basso, Santiago 2, Radio 2, dai. Buonasera Riccardino, ben sentito. Cosa bella che il ritardino riceve a tutti, anche Alghero, però purtroppo tu non riesci ancora a ritardino a farti ricevere a tutti bene. Io grazie a Dio già ti ricevo sempre 9 e anche oltre come segnale, però c'è qualcuno che non riesce a tirarti fuori, ma in altre posizioni, per dire quello di Ripunti, Giulio l'altro giorno ti sentiva più basso, eccetera. E tu però ascolti tutto, con l'antenna in ricezione funziona, in trasmissione devi cercare di migliorare qualcosa, o ti metti direttamente una 5 ottavi o non lo so, vedi un po'. Quella è la radio, Robbe, ci vuole anche la radio, dai. No, ma è che c'è una bella radio, Luca, non è la radio che c'ha Riccardo, cacchio. Magari vuole, non è estinta come la nostra, capito? Noi siamo tutti amplificati, poi si deve adeguare a un microfono magari amplificato. Questo è Marco che non sta uscendo, avanti Marco. Lui è in alto, Antonio, alla fine un'antenna anche una mezz'onda va bene. Capito, va benissimo, va bene, benissimo, ma qua arriva basso. Ci vuole, Robè, un po' di radio, dai, inutile. Lui sta utilizzando il microfono da palmo, Luca. Se mette un amplificato sicuramente si fa sentire molto più forte. Perché la radio, ti sto dicendo, tu l'hai visto, lui che mi ha dato tu, la radio sua è il doppio di quello. Ma come se io esco così, non c'ho radio. Vabbè, non sarei amplificatissimo, ma ti ascolto bene lo stesso. Il problema è che tutti siamo con le radio amplificate e lui non è amplificato, come Giovanni Bracco. Quando facciamo una conversazione per dire io e Giovanni, gli alzo un po' il volume e lo sento bene, però poi entri tu e mi sfasci le orecchie, entra Claudio, allora va a bassa, o ce l'abbiamo tutti uguali, lui si deve adeguare Riccardo come noi e aumentare un po'. No, voi dovete uscire come cristiani. La mia non è amplificata. Che la mia, chi l'ha detto che è amplificata la mia, Robè? È così, tu guarda che sei già. Robè, ora poi tu poi lo devo abbassare. Ma dai, che stiamo parlando di un'altra cosa. Io sono col DAC, adesso non sono amplificato. Tu mi senti amplificato, Luca? Forte la radio. Ma il microfono normale, l'MC50, poco fa l'ho mai sentito col 440. Questo è l'MC50, non è che amplifichi così tanto, però è una modulazione un po' più alta rispetto al microfono normale. Ciao Marcolino La Tapignara. No, io esco sempre col mic normale, tanto l'amplificato introduce o risonanze metalliche o rimbombo, non preferisco così, dai. Beh. Avanti, avanti. E ho capito Bracco, là. Ascolta, Cla, ma diciamo un attimino solo, la tassa annuale è sempre la stessa, 5 euro? Aspetta, stanno parlando, San Giovanni. Non ho capito. Aspetta Giovanni, che stava parlando Angelino, cosa hai detto Angelino? Ehi, ehi, saluta Malassandro, no già arriva ma basso, sono abituato a sentire un'altra frequenza molto più forte. ok, salutamelo, un abbraccio. Sì, Giova, sempre 5 euro, sì, per la banda amatoriale sempre 5 euro, per i CB è 12 euro, che è un controsenso. Ho capito, sì, no, perché poco fa stavate parlando, ho capito male, perché ho fatto, mi sono informato da Antonio Angi, ma detto, Giova, vi chiede sempre la stessa roba, non ti preoccupare. E poco fa, diciamo, mi è sorto il dubbio perché stavate parlando magari di tasse varie, quanto pare nei CB mi sembra fanno 10 o 12 euro, capito? Vabbè, fai girare, vai, io comunque sempre qua ne ascolto, dai. Va bene, Giova, sì, 12 euro per la banda cittadina e 5 euro per noi radioamatori, che ripeto, ribadisco una cosa che io non ho mai concepito, non concepirò mai, non sono d'accordo, perché doveva essere al contrario, visto che la banda amatoriale offre molto di più e la banda cittadina non offre assolutamente niente, solo 40 canali con un semplice baracchino norma c'è, quindi 12 euro mi sembrano troppo eccessivi. Vabbè, comunque, questo dice il Ministero e questo accettiamo, se volete vi dico. Avanti, io, chi c'è? Robert, non ho capito. C'è Luca, Antonio Mombolo, Marco, Riccardino, entrato, poi Angelino c'era. Io l'avrei fatta gratis per i lavoratori, considerando che è un servizio anche di emergenza, perché la metà è cose. Non capisco perché si paghi, che è come una patente di macchina, prima verranno veramente i bulli. Per me io l'avrei fatta gratuita. E si arriverà anche a quello, sicuramente si arriverà anche a quello. Il giorno che si incassa la protezione civile, vedi che con tutte le emergenze radio che i radioamatori fanno, le facciamo in tutta Italia, e i servizi che diamo, penso proprio che si arrivi a quello. Allora, avanti Antonio Bombolo, ciao, buonasera. Limitata, tanto per fare emergenza a livello amatoriale è troppo limitata, ci vorrebbe meno limitazioni, un po' più di ampiezza, e allora molto probabilmente servirebbe a qualcosa, ma è troppo limitata, non sono consentite assolutamente niente, capito? Da 1 a 40 canali cosa fai? Non fai assolutamente niente. Le emergenze si fanno in basse frequenze, in alte frequenze, eccetera, lo sapete tutti, quindi il radioamatore ha un servizio più completo, anche perché usa le VLU, dove sono appunto usate a livello ministeriale, quindi tutti i corpi, le forze armate, insomma, usano le VLU, quindi se avessero consentito quello almeno, invece non hanno consentito il PMR a livello locale con un antennino di gomma e un portatile, ma vabbè, anche se tutti sappiamo come lo usiamo, quindi, o come lo usano, perché io non li uso più. Avanti, Marco, riprendi. Sì, sto scaldando la pappa, tanto devo mangiare, mi sono distratto anche per l'ora e solita storia, dai. Volevo chiedere a Luca se aveva poi deciso per l'antenna. Facciamo riprendere a Gianni Obloffetta che è in parcheggio. Eia, ciao Claudio, ben sentito, ben ascoltato, buonasera. Amnesia. Vabbè, in parcheggio mi avete svegliato, mi stavo rollando una sigaretta.